ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. L'estensione dell'ecobonus auspicata dalle associazioni dell'automotive è diventata realtà. La conversione in legge del decreto rilancio infatti ha introdotto un sistema di incentivi per chi acquista un'auto Euro 6, categoria che comprende quindi anche i mezzi a benzina e a gasolio. Fino a 3.500 euro per chi acquista un'auto con questa classificazione ne rotta ma una vecchia di almeno 10 anni, incentivo che però si dimezza in assenza di rottamazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2020 ed è valido per le vetture con prezzi fino a 40.000 euro. Cresce anche la quota per le elettriche e le ibride, i cui contributi salgono rispettivamente a 10.000 e a 6.500 euro. 4.000 euro, 3.000 senza rottamazione invece per moto e motorini elettrici o ibridi. Interessante anche sapere che le patenti scadute nei mesi del lockdown resteranno valide fino alla fine dell'anno. In piena fase 3 dell'emergenza da coronavirus, anche la viabilità sulla rete viaria ANAS ha ricominciato a crescere, allineandosi ai trend degli scorsi anni. Ascoltiamo la scheda. Dopo il blocco dal lockdown e con il graduale ritorno in strada, il traffico sulla rete viaria ANAS procede in costante aumento. L'indice di mobilità rilevata dell'Osservatorio del Traffico ANAS segna infatti per giugno 2020 una crescita decisa rispetto al mese precedente. Più 53% sui veicoli totali, con un incremento medio settimanale del 6%. Ad aumentare, grazie alla sospensione del confinamento e alla riapertura delle regioni, è stato soprattutto il traffico prefestivo e festivo, rispettivamente a più 83 e più 139%, mentre i transiti nei giorni feriali hanno avuto un incremento più contenuto, pari al 35%. La fase 3 ha avviato un progressivo riallineamento ai trend storici dello stesso periodo dello scorso anno. Giugno 2020 rispetto a giugno 2019 ha visto una flessione del traffico pari al 18%, con prospettive di crescita per i prossimi mesi. A causa del Covid-19 molti saloni dell'auto hanno rimandato tutto al 2021, ma la rassegna Milano Auto Classica fa eccezione e addirittura anticipa l'appuntamento. La kermesse dedicata ai veicoli del passato, organizzata a Milano Ro Fiera, si svolgerà infatti dal 25 al 27 settembre e non più a novembre, come precedentemente annunciato. Ovviamente, dato il momento delicato, saranno rispettati i protocolli sanitari e sarà monitorata la capienza consentita negli spazi comuni. Pneumatici. Dopo i test indoor del periodo di lockdown, Pirelli ha dato il via ai test outdoor per lo sviluppo degli pneumatici destinati al World Rally Championship 2021. La prima sessione di prove è iniziata questa settimana sulle strade della Sardegna, con un programma dedicato sia alle gomme da sterrato sia alle gomme da asfalto. Test driver, il norvegese Mikkelsen, alla guida di una Citroen C3 vestita con una speciale livrea Pirelli realizzata per l'occasione. Nuovo logo per Opel. Con l'uscita di Mokka attesa sul mercato all'inizio del 2021, la casa tedesca, entrata nella galassia PSA, debutterà con un nuovo fregio. Nel logo ristilizzato, che verrà applicato a tutti i modelli, il fulmine e l'anello saranno più sottili e minimali. L'anello inoltre sarà di diametro ridotto e avrà l'incisione della scritta Opel nella parte bassa. E cambiamo decisamente argomento. Cosa pensano gli italiani oggi della mobilità? Come intendono muoversi? Quali alimentazioni sceglieranno nel prossimo futuro? Per dare una risposta a queste domande, Arete, la società di consulenza che da tempo si occupa di questi studi e queste ricerche, ha effettuato un sondaggio e noi cerchiamo di capire come è andata in compagnia del nostro ospite, che è Massimo Genzer, presidente di Arete. Buonasera Genzer, grazie grazie per essere qui con noi. Allora, cominciamo a parlare di questa ricerca. Innanzitutto, che tipo di impatto avete avuto rispetto alle vostre domande? Cioè, c'è interesse da parte degli utenti italiani oggi ad acquistare un'auto? E in effetti c'è un effetto netto del lockdown. La gente tende a preferire la macchina privata ai trasporti pubblici. E questo è un dato che avevamo registrato anche con altre chiacchierate in precedenza. Però quali sono le aspettative degli italiani rispetto a questo tipo di mobilità? Tutto questo si tradurrà alla fine in un maggiore acquisto di auto? Questo non è facile dirlo, anche perché dipenderà da come usciremo dal punto di vista economico da questa situazione del Covid-19. Ma una cosa è certa, che la qualità del tipo di acquisto varia. Il 60% degli italiani oggi vogliono acquistare una vettura elettrificata, ovvero ibrida o elettrica. E prima non era così. E poi inoltre, quando abbiamo chiesto perché volete una vettura elettrificata, la risposta in passato era generalmente, insomma, i minori costi gestionali. Adesso un 45-46% dice perché io tengo all'ambiente. Certo, questo, quindi c'è una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti, probabilmente sollecitata anche dagli incentivi che in questo momento il governo ha messo a disposizione per chi fa questo tipo di scelta. Veniamo all'approccio rispetto al mercato e ai concessionari. Si sta allargando in questo senso la possibilità per gli utenti di avvalersi di nuovi strumenti telematici come internet o addirittura i sistemi di messaggistica? Beh, loro stanno dicendo, i clienti intervistati, ma sin dalla prima ondata di marzo, stanno dicendo che la trattativa da remoto è per loro molto interessante. L'80% dice la preferisce, poi il 30% dice addirittura che la metterà in esecuzione. Quindi andrà a acquistare la vettura con contatto con il venditore attraverso i sistemi digitali, con il supporto di video che dia una rappresentazione della vettura, sia dinamica che statica. Quindi c'è un grande cambiamento. Certo, a proposito di cambiamento, ma gli italiani hanno le risorse economiche per affrontare questo mercato? No, e mi sembra che a livello governativo debba essere fatto molto di più. In Francia il governo ha stanziato 8 miliardi per il passaggio dal trazione termica, cioè diesel e benzina, quella elettrica. Stanno investendo in fabbriche di produzione delle batterie. In Germania hanno stanziato 5 miliardi, stanno costruendo i punti di ricarica delle vetture elettriche. Qua da noi sembra ancora, gli incentivi non sono usciti, ma sembra che si sia stanziato 50 milioni. È una cifra irrisoria. Ecco, in questo senso gli utenti preferiscono ancora il vecchio acquisto in contanti o si fanno strada le varie forme di finanziamento? Contanti ormai è soltanto un 30%. Il finanziamento da anni è in aumento e per effetto del lockdown e del Covid-19 addirittura è diventato un 70%. E quello che è in aumento è il noleggio. Il noleggio a lungo termine, stiamo al 12%, perché il noleggio è comunque, ti dà delle certezze, succeda quello che succede, tu negli anni in cui utilizzi la vettura a noleggio pagherai sempre quella cifra là, non cambierà mai, e questo dà delle forme di certezza ai clienti. Certo, c'è poi un capitolo che riguarda i test drive, molto interessante, perché una volta per poter provare un'auto si doveva andare necessariamente presso la concessionaria, invece anche qui le abitudini cambiano. Sì, 6 su 10, a patto che la vettura sia sanificata, loro portatemi la vettura a casa, io voglio fare il test drive, mi interessa, anche perché bisogna far capire alla clientela che l'utilizzo di una vettura elettrica o di una vettura ibrida è tutt'altro che noioso. Sono vetture stupende che hanno anche delle accelerazioni brucianti, però bisogna farglielo capire, spiegare e far guidare. E sono disponibili, gli italiani sono disponibili. Certo. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite Massimo Genzer di Arete, che ci ha dato un po' una fotografia, uno spaccato di quelli che sono i desiderata degli italiani sul fronte dell'acquisto delle automobili. Ci risentiamo per la seconda parte, parleremo di Ford, in particolare della nuova Ford Puma Hybrid, ma non solo, in compagnia del nostro ospite Marco Alussaffi, responsabile della comunicazione di Ford Italia. A tra poco. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, questa parte sarà dedicata a Ford. Parleremo in particolare di Ford Puma, l'ibrida più venduta in questo primo semestre del 2020 in Italia, ma faremo un po' anche il punto della situazione su questo mercato italiano ancora difficile per il mondo delle case costruttrici. Tutto questo in compagnia del nostro ospite, che è Marco Alussaffi, direttore delle relazioni esterne di Ford. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi, grazie a voi di avermi chiamato. Allora, cominciamo con la notizia, come direbbe qualche collega giornalista, e cioè quella della Ford Puma, che è diventata l'ibrida più venduta in Italia. Vi aspettavate questa notizia? Allora, devo dire che la soddisfazione è grande, vi direi, di questa. Noi sapevamo di avere una vettura molto importante, una vettura che sicuramente avrebbe incontrato il gusto dei consumatori italiani, e sapevamo che avere questa variante ibrida era sicuramente una freccia in più nel nostro arco. Sicuramente il risultato ci ha fatto piacere, in parte ci ha anche un po' sorpreso, però col passare dei mesi ci siamo resi conto che la proposta Puma ibrida era in realtà esattamente centrata su quelle che sono le attuali esigenze degli italiani. Certo, ma quali sono le caratteristiche di quest'auto? Ascoltiamolo nella prossima scheda. È l'ibrida più venduta del primo semestre del 2020 in Italia e insieme a Kuga, Focus e Fiesta guida l'offensiva green di Ford. È Ford Puma che, pur ereditando nome e linee sportive dalla coupé del 1997, è un'auto del tutto diversa, innovativa nella sua motorizzazione EcoBoost Hybrid. Crossover di ispirazione SUV, si presenta sul mercato con dimensioni compatte senza sacrificare abitabilità e spazi interni. È disponibile con motore turbo benzina 1000 EcoBoost da 125 cavalli, che nelle versioni ibride arriva a 155 grazie all'abbinamento al motore elettrico con una batteria agli ioni di litio a 48 volt. Il piacere di guida è assicurato dalla possibilità di scegliere la modalità con i drive modes, mentre sul fronte della sicurezza sono da segnalare le 5 stelle Euro NCAP. Lunga 4,19 m, larga 1,80 m, la Puma si caratterizza per il tetto spiovente nel posteriore, che termina con uno spoiler a ricordarne il carattere sportivo, confermato dalle nervature delle fiancate laterali. Vero protagonista dell'estetica di quest'auto è sicuramente il frontale, con il taglio verticale dei fari e la grande calandra a nido d'ape. Da segnalare anche, tra le sue specificità, la connettività avanzata del modem Ford Pass Connect, che trasforma Puma praticamente in un Wi-Fi hotspot. E rientriamo in studio. Tra l'altro vi ricordo che è possibile vedere anche la prova video della Ford Puma ibrida collegandosi al sito di Radio 24, quindi www.radio24.it, nella sezione Strade Motori. Ritorniamo al mercato italiano, Saffi. Abbiamo detto primo semestre importante per voi, per questa vettura. Come sta andando in generale per Ford questo mercato? Un primo semestre sicuramente molto complesso per quello che è successo, era partito molto bene e poi chiaramente è arrivato l'imponderabile. Devo dire che sicuramente grazie anche al fatto che abbiamo diversi prodotti nuovi da lanciare in questo anno e grazie anche evidentemente ai programmi di marketing che siamo stati in grado di sviluppare velocemente, il nostro andamento adesso ha ripreso un ritmo soddisfacente, tenuto conto dei tempi, e sicuramente migliore della media del mercato, tant'è vero che anche a giugno abbiamo chiuso con un risultato migliore rispetto a quello che è stato quello del mercato. È un momento complesso in cui le persone ovviamente hanno delle difficoltà per quello che, per lo stop che hanno avuto alle loro attività, agli stipendi in qualche caso, e quindi è sicuramente un momento complesso dove le persone si avvicinano al mondo dell'auto, veramente se ne hanno bisogno estremo, perché è chiaramente un impegno economico non indifferente. Abbiamo cercato con i nostri programmi di rendere più, come dire, morbido e accessibile il prodotto auto, con delle formule che agevolassero l'ingresso, diciamo, senza, riducendo al massimo l'esborso iniziale, anticipo zero è il nostro claim principale, ma anche con rate iniziali molto accessibili, in modo da rendere questa operazione piuttosto agevole e accessibile. I risultati ci stanno dando ragione, e chiaramente, come dicevo all'inizio, complice anche il fatto di avere come proposta dei prodotti come la Puma, di cui abbiamo appena accennato, ma anche la Kuga appena lanciata, e anche questa con varie forme di elettrificazione, quindi prodotti nuovi che incontrano quello che è i gusti e le necessità dei clienti. E anche le esigenze del paese, visto che ci sono degli incentivi specifici per il settore dell'elettrico. A proposito di elettrico, avete lanciato anche delle funzioni interessanti, in particolare per quanto riguarda i veicoli commerciali, come ad esempio questa funzione di geolocalizzazione che automaticamente all'interno dei centri urbani, nei centri storici, attiva la modalità elettrica, quindi senza bisogno dell'intervento dell'operatore. Come sta andando questa sperimentazione? Allora, è appena all'inizio, quindi chiaramente dipende molto anche dalle infrastrutture nei vari paesi, dallo sviluppo delle infrastrutture. Abbiamo voluto però dotare i nostri veicoli commerciali di questa tecnologia, perché intanto perché è un po' quello che ci caratterizza, cioè essendo noi indiscutibilmente leader nel settore dei veicoli commerciali in Europa, e avendo quindi nel brand Transit un brand storico e assolutamente riconosciuto come un brand leader del segmento, e avendo in più lanciato la versione plug-in hybrid, unici noi nel segmento veicoli commerciali ad avere un veicolo fino a una tonnellata plug-in, chiaramente quindi un mezzo che può andare effettivamente in elettrico per 50 km circa. Quindi avendo questa possibilità ci sembrava interessante sperimentare, da cui, visto che siamo tutto sommato degli sperimentatori nel mondo dei veicoli commerciali, questa tecnologia che appunto, come accennava, non fa altro che dialogare con le infrastrutture, e nel momento in cui individuo una zona in cui può entrare solo un veicolo elettrico, il nostro Transit plug-in spegne il motore termico e passa alla modalità elettrica. Certo. Una cosa sicuramente innovativa che sicuramente troverà un'applicazione molto ampia col passare del tempo. Però, e anche nei centri storici italiani, che tra l'altro sono i più tutelati d'Europa, tra le altre cose, proprio a livello di ZTL. Saffi, siamo in chiusura, abbiamo parlato di alcuni modelli, abbiamo parlato della Puma, della Kuga, ci sarebbe da parlare di Focus, di Fiesta. Cosa vedremo di nuovo da qui ai prossimi mesi, quindi fine 2020, inizio 2021? Allora, il prossimo lancio, quando avremo concluso quello della Kuga, che come dicevo è in corso, sarà il lancio dell'Explorer. L'Explorer è un SUV molto grande che ha avuto un successo nelle sue precedenti generazioni enorme nel Nord America, e che finalmente arriva anche in Europa nella versione solo in versione plug-in hybrid. Quindi un altro plug-in che si aggiunge alla nostra gamma. Dopo l'estate invece avremo il lancio di alcune versioni di Puma che non ci sono ancora, per esempio la ST arriverà, quindi una versione sportiva, e avremo anche la conclusione del lancio della Kuga con l'arrivo della Full Hybrid. All'inizio del 2021 arriverà poi il nostro primo veicolo completamente elettrico, che è un crossover, un SUV che si chiamerà Mach-E, e che è ispirato alla Mustang, infatti si chiama Mustang Mach-E, ed è completamente elettrico, dotato di la possibilità di avere un'autonomia fino a 600 km, quindi un'autonomia molto interessante certo, per poter fare degli spostamenti, diciamo, anche lunghi. E noi seguiremo con attenzione anche in prossimo futuro questi lanci. Termina qui questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Marco Alussi.